Dimentico e divento solo in un momento, scrivendo identico simpatie dello stesso cuore che percuote. Dimentico e divento sole in un momento, scrivendo identico simpatie dello stesso cuore che percuote. Ore che giungono, parole dirette a rischiarare in dono. Ore sole, ritrovo in tuono, in dote, quel sole che percuote. Dopo assumo veleno di rime, come maledette lame, brame d'amore in tuono in dote, e che se non consumato percuote in un futuro pozioni d'amore, pretendo correndo lungo il muro di ore in dolore che poi sconfiggo in dono. Ho pace e se non ho dote alla fine percuote. Dimentico e divento sole in un momento, scrivendo identico dello stesso cuore che percuote. Dimentico e divento sole in un momento, scrivendo identico simpatie dello stesso cuore che percuote. E se percuote il mare nel sudare, immagini nel tornare alla mente in dote, percuote comunque tra le tue labbra di rose in ombra d'occulto, trovo risvolto d'un vero del sole avvolto dal mondo, lasciato in ore d'esistenza, il compiuto che percuote. Un domani, alla fine del viaggio, forse sarà tra le mani, nuove il sapore di un miraggio, a ridare parole in dono e dote, e alla fine quel tono non percuote più. E alla fine quel tuono non percuote più, non percuote più, non percuote più. Divento sole in un momento, scrivendo identico simpatie dello stesso cuore che percuote. Divento e dimentico il sole in un momento, scrivendo identico simpatie dello stesso cuore del sole che percuote. Ore che giungono, parole dirette a rischiarare in dono. Ore sole, ritrovo in buono dote quel sole che percuote. Dopo assumo veleno di rime come maledette lame, trasfumo di sigarette di brame d'amore in tuono in dote, e che se non consumato percuote. Un domani alla fine del viaggio forse sarà tra le mani, nuove il sapore di un miraggio, a ridare parole in doni e in dote, e alla fine quel tuono non percuote più. Dimentico e divento sole in un momento, scrivendo identico simpatie dello stesso cuore che percuote. Dimentico e divento sole in un momento, scrivendo identico simpatie dello stesso cuore che percuote. Pagine su pagine inarrabili. E se percuote il mare nel sudare, immagini nel tornare alla mente in dote, percuote comunque tra le tue labbra di rose in ombra d'occulto, trovo risvolto